sicurezza e il mio spavento. Thank you.

Ciao!

nemica sorte, tanto m'affligge tanto, che se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar, ne scopri il pianto.